Apri i miei occhi ed è triste la realtà, sì. È pura verità che mi fa male fra, sì. Io vedo luci oscure in una cupa città, lacrime sparse nella nostra società. Rifletto nella famiglia che piange di un padre e una madre giudicati a pagare, sì. Non voglio pensare, ora voglio lottare. Sono stanco del male di chi vuole ingannare, basta. Di chi per cambiare lo fa tramite una droga, sì. O di chi per incoscienza si sente alla moda. Qui nessuno perdona il reato, no. La gente se ne frega etichettandolo malato. Dov'è lo Stato che chiamano Italia? Viva il bel paese, mille pregi, legge mafia. Parliamo di pizza, di spaghetti e mandolino, sì. Ma ci vergogniamo di una realtà in declino.